In quel giorno si canterà questo canto nel paese di Giuda. Abbiamo una città potente. A salvezza nostra ha eretto mura e baluardo. Aprite le porte ed entri una nazione giusta che mantiene la fedeltà. Il suo proposito è fermo. Tu gli assicuri la pace perché confida in te. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia perpetua, perché ha abbattuto quanti abitavano in alto. La città elevata l'ha umiliata, fino a terra, l'ha gettata nella polvere. I piedi la calpestano, i piedi del misero, i passi dei poveri. Il cammino del giusto è retto, tu appiani la via del giusto. Sì, nella via dei tuoi giudizi, o Signore, noi speriamo in te. Il tuo nome e la tua memoria sono l'aspirazione dell'anima. L'anima mia anela a te di notte. Anche il mio spirito nel mio intimo ti cerca. Perché quando i tuoi giudizi appaiono sulla terra, gli abitanti del mondo apprendono la giustizia. Se si fa grazia all'iniquo, egli non apprende la giustizia. Sulla terra del bene egli opera il male e non riconosce la maestà del Signore. Signore, eccelsa è la tua mano, ma essi non vedono. Vedano, arrossendo, la tua gelosia per il popolo, anzi, il fuoco dei tuoi nemici li divori. Signore, tu ci procurerai la pace, perché ogni nostra azione tu la compi per noi. Signore, nostro Dio, altri signori all'infuori di te ci hanno dominato. Ma soltanto te noi invochiamo, il tuo nome. I morti non rivivranno, le ombre non risorgeranno, perché li hai puniti e distrutti, hai fatto sparire ogni loro memoria. Hai accresciuto la nazione, o Signore, hai accresciuto la nazione, ti sei glorificato, hai esteso tutti i confini del paese. Signore, ti abbiamo cercato nella tribolazione. L'angoscia dell'oppressione è stata il tuo castigo per noi, come una partoriente in procinto di generare si contorce e grida per il dolore, così siamo noi al tuo cospetto, o Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito le doglie come se dovessimo partorire. Era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non nacquero abitanti del mondo. I tuoi morti rivivranno, i loro cadaveri risorgeranno, si risveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere, perché la tua rugiada è una rugiada luminosa e la terra darà alla luce le ombre. Va, popolo mio, entra nelle tue camere e chiudi i battenti dietro a te. Nasconditi per un istante finché non sia passata la collera, perché ecco, il Signore esce dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra scoprirà il suo sangue e non nasconderà più i suoi uccisi.